sempre, soprattutto se vai negli spot nuovi, capito? Quando bisogna avere a volte quello che prendi il giorno prima, con quella lì il giorno dopo non li prendi, devi cambiare, no, non è questione di cosa, il pesce è lunatico. Già organizziamo, appena calma il mare. Dimmelo, cambiamo, che problema. Intanto una cannetta carnosa ce l'ho, di quelle piccoline, comuni nello piccolo, ce l'ho. Vi porto sull'artificiale qualche piombino, perché io faccio, metto mezzo metro di densa, un piombino piccolo, l'artificiale all'altro, in modo che gallina. No, io ci attacco direttamente l'artificiale e basta. La seppia solitamente sta a mezz'acqua, appena rialzata, si nuota anche nella sabbia, in mobilità, però io molte volte l'ho vista a mezz'acqua. Sì, le prendo anche così. Io già le prendevo, purtroppo c'era un posto, io l'ho preso anche 12, tutte di più, mi chiedo anche a Claudio e Natalino. Anche a Natalino ho portato, ne ha pescata anche lì quelle grosse. Sì, ci prendevano belle, Sì, adesso è sceso la temperatura qui. Se si decide non male, fai massi, porca miseria. Ma tu dove stavi andando, in fin? Sì. Intanto non è che devi fare lanci chiusi, con le cannette lì fai i lanci in cima. Forse gli stivali, la tutta. Sì, canna buona ci vuole, già, canne buone ci vuole, non è che vuoi trattare una canna bolognese o surfcutting, ma palleggingo. No? Ce l'ho buona, io ce l'ho piccola, forza come un inello piccolo, quella che ho usato per recipe per i calamari di Apocalipsi. Ho già pubblicato più seppie che calamari, i calamari di meno, ma seppie non preso bene. Ehi, vabbè, se vai di notte. Bisogna andare di notte per i calamari, soprattutto. E dove c'è luce? Guarda, c'era un amico mio che andava, c'era un coso, uno di quelle gasiere che stava al largo, andavano sotto la gasiera dove c'era la luce. Sai quanti ne pigliamo? Immagino. Ma guarda, se trovi lo spot dove ci sono, li prendi anche se non c'è un filo di luce, capito? E ma loro sono attratti dalla luce, tanto è vero che io facevo luce, le davo un colpo di flash all'artificiale, le davo un colpo di flash e rimane illuminato per un po', lanci e poi che si attaccava giù. Ehi, anch'io ce li ho tutte così, un colpo di luce allora. Adesso il flash non ce l'ho più perché l'ho venduto, l'ho venduto rapido che mi serviva, ne non ha, vabbè c'è le luci, non c'è problema, tutto la luce. Io c'ho tutto, perché ho pantaloni, quelli ti fanno sudare un becco, i pantaloni da normale, sono felpati dentro e poi sono in nylon, tipo, vedo che posso dire, tipo quei giubbottini che si usavano prima, là, e io ho preso quei giubbotti di pochi uiti, ricordi che si usavano una volta, che a me è appesantito, non mi piace piccare. Leggero, di pochi uiti è questo qua che ho preso da poco. Leggero ma ti fa caldo, capito? E anche io ce l'ho preso. C'ho tutto, pantaloni e giacca, tutto qua. Poi c'ho anche quelli pesanti, c'ho quelli tutto per fare la notte per andare a calamari, cioè praticamente ti fanno, torni a casa e sei tutto bagnato sotto, ti fanno sudare un casino. Ehi, scacciacqua, tipo quelli lì. Ehi, già ho capito, sì, quelli tu. L'avevo comprato anche, l'avevo pagato una cazzata. Sotto felpa. Non mi piace appesantirmi con giubbotti imbuttiti e tutte quelle cose, no? Cioè, se si prende surfcutting, sì, a chi lanci e ti vemmi, ma quando fai pesca in movimento non mi piace se ha appesantito. Ma perché tu capisci? E allora, fermo un poco. Quando faccio tre lanci così a ventaglio e poi faccio una decina di lanci top a ventaglio, se non prendo mi sposto di 4-5 metri e di nuovo a caffè. Mica sto fermo io. E io sto qui. No, io stavo fermo e ne pigliavo tutti perché c'è proprio un punto. C'è proprio un punto dove deve essere c'era qualche tana tra la sabbia e la roccia. E lì le prendevo le sigle. Anche Natalino ne ha preso perché ho portato io nel posto lì e ne ha preso anche lì. Beh, se trovi il punto poi ti fermi, è naturale, no? E fai strage, ma quando non c'è fai ti spostare per forza, perché se non è lì magari te la trovi a 10 metri più avanti, capito? Allora io faccio sempre così, se dopo 10 lanci così non si attacca, vuol dire non venire, allora mi sposto. Ma ti ci fa attaccare anche il polpo, vero? Beh sì, casino, si attacca il polpo, cazzo. Ma stavolta ha giubilato una razza. Sempre col pesce? Sì, sempre con la totanata. E adesso si è agganciata, magari era... Magari l'ho beccata perché gli ho passato la totanata sopra. Ma grossa? No, era piccolina, sarà stata 20 centimetri di diametro. L'ho ributtata in acqua. E dove l'hai beccata? Sopra oppure sopra? Sopra. Verso la coda proprio. Vabbè, ma è una zeppia grossa invece. Oh yeah, sono come una magna, che è una cosa spettacolare. Bravo tu. Cosa ti stavo dicendo? E allora è come tu stavi scarrucciando le pizzicate. E allora. E la magna quando assaggiamo, budimudì, che è una bomba, di vero già. E allora, poi non ci ha messo l'alloro, gli ho detto vieni a casa che ti porto in un posto dove prendere l'alloro. Ma ce n'è anche qua a me, qua giù, tanto viene di alloro. Oh, anzi. Oggi sugo al tonno. Ah, sugo al tonno. E anche io quando voglio fare qualcosa di veloce lo faccio. Però il tonno non lo cucino molto. Io lo faccio il sugo, poi il tonno alla fine lo giro appena appena e lo faccio sciogliere in mezzo al sugo. Ma quello che comanda è il sugo. Sempre invece di ammagnarsi, tipo, io guarda, non ne posso più. Sto andando a girare la magna. Sempre invece di ammagnarsi, di altro. Paghi subito, ma non mi capisco mai. Ma ci ho preso già. Ho detto, un viso di magna, non lo visimmo mai. Lo magna puro. Ma come faccio io? Esce buono il sugo. Tutto ha fatto naturale, senza pasticci. Invece lo posso fare. Quando vengono qua, mio figlio e mio nipote si deve recare di lì. L'ho fatto con la capra marina domenica, ui, tuo marito è. Una grappa marina. Ecco, la capra marina, meglio della ragosta il sapore. Anche tu, qua il sugo più saporito della ragosta, perché due domeniche prima l'ho fatto con la ragosta. E domenica l'ho fatto con la capra marina. E io, vabbè, sono fortunato perché un amico che va a pescare con le reti e io gli faccio molti favori, quindi mi compensa così. Ogni tanto me ne porta una, ragosta, capra marina, granchi, di. Pure pesci, l'altro giorno mi ha portato due orate belle, c'era sotto da 800 grammi. Io sto prendendo un golfo, intendo. E anche io dice, appena appena malissimo. Ah, hai compreso, cara. Cazzo, prima non ti indiano, ma tengo un golfo da tutti le parti. Ci sono, c'è purtroppo che se Dino nella tua città non ci sono. Diciamo che si sente. No, io sento pochissimo, proprio poco. Avanti lui. Ti aspetta al computer. Adesso quando da girare la maglia, sto quando da girare. Finito di cucinare. No, ancora no. Ebbene, ho appena cominciato. E di secondo cosa fai anche tu? Di secondo niente, no, mangiamo quello e basta. E vabbè, già c'è il tonno, come c'è il tonno. tratto roseggia. Sì, aspetta che. Non c'è modulazione, è logico che si intende. Tu. Sì, dimmi. Ah, sei Zampia, che è proprio Gigetto, che so che da un mese ti invito. Saturando sto, no, questo non satura, anche attaccato. Ma sta dell'invaria. Ah, ma sì. Ah, risento a Zindillo, 747. Che appare a te. E che apparecchio non sei usato? Il Colt. Che perché? Colt con il microfono originale, ma microfono della Midland. Originale, vabbè. Vabbè. Quello per prova. Se vuole ci tieni, chi mi vuole? Cazzo, roba di casino, guarda. Sì, c'è da battaglia, ce l'ho fatta anche io pure, ma non ce l'avete più quello modificato. Sì, la candela di Buetto, si ha venduto tutto. Quello era bello, io dico, ma... quello era forte. Vai, qua. Io ce l'ho sempre come una bella sopra, io. Oh, che abbia mille paure, io paura c'ho avuto, perché se mi attardi molto educatamente non vado tutto. Avete chiesto? Ho chiesto io. Oppure le sere buttavuce stanno mandando da là? No, glielo ho detto, dove veniamo a mettere la pelle? Abbiamo fatto il lavoro, non ci hanno rotto le palle di niente. E lui invece aveva paura a piazzarla a paura di trovare, di fare casino, di rompere le tegole, eccetera. E a volte ti metti paranoie che non esistono, che magari se chiedeva anche lui, da allora ce l'ha provata. Ma è dramma tutta molto suio. Là potevamo fatto nulla, cosa, funziona tutto. Come l'avete messo le staffe? A muro oppure con i cassi? Cosa vuol dire? Cosa? A muro l'abbiamo messo. Cioè, bucato il muro e poi cementato? No. A muro c'è così. Ha detto, ma a muro oppure con i tassi? Tu metti a muro. A muro sono così, si fa il buco, si mette la staffa e poi si cementa. A bucare, una da 13. Io da 14. C'era burda quella ma non ce la fermavo. Io ho messo tassello da 14. In più gli ho messo dentro silicone prima di mettere il tassello. Poi ho ficcato il tassello, la si muove manco un barcato. Oh, io signor manca cannonati in incisa. E poi lì hanno fatto tutto nuovo. Interessante che la parte di giù l'avete lasciata sollevata, perché se devono mettere il tegolo o fare qualche cosa ci possono passare sotto. Da. No, ce n'è tempo, c'è il commendato. Non ce n'è più tempo, anzi non ce n'è più tempo. È da qualche anno che non ce n'è più tempo. Chi è che può entrare avanti? Capito già? Sì, ma io pensavo fosse lo tegolo, non ci ho fatto caso, lo so. E tegole ci sono solo nel coso, nel mucigiano. Girati, cerchiati. Capo, ma se sai camminare non succede nulla, non crepi nulla, no? Io bisogna camminare e devi prendere due tegole alla volta, così, se no devi qui. Ma cosa, ragazzi, c'è tutti a... Ma è logico, se si salta uno qui, un pallone gonfiato, mi faccia il dubbio. È logico che non va bene. Ma se ci sarà una persona che lo sa fare il lavoro, cioè che è competente, danno non lo fa. Ma Luca non è l'animo. Luca è competente e mi ha fatto il lavoro giusto. No, la tegola non ce n'è già, sono quei pannelli qui bentati, capito? La paura era che a seconda della pendenza che aveva il tetto era rischioso, perché ma se ti cade un cacciavite, che cosa dice paradura, capito? Però almeno già si è stati attenti. Vabbè, è volato un dado da 10. La gente si è uscito in grondaia. Non so che succede. È successo da me, però c'è la ghiaia e si è uscito in mezzo alla ghiaia e non abbiamo più trovato. Sono dovuto cedere in giù, ma non male che ne avevo. Un dado preso da giù. Ma poi un'antenna leggera, cosa cazzo? Sì, l'antenna leggera, vabbè, ma se ti è mattina, vabbè, aveva in questa casa, abbiamo piazzata io, Luca, Lattarino e Claudio. Te ne ricordi? Tu vai tu che vedi? Beh, almeno quello è un bel tetto a terrazzo, quello è bellissimo. Sì, ma c'era un bel difetto, non te lo ricordi se la buttate a me, all'antenna, e che tu mi ricordi se butti a bordo. Ci stava portando a noi, mia, tu. Mi ha piegato il tubo al sacco, mi ha piegato il tubo il vento. Quindi Antonio, se scivoli stai tranquillo che si fa riosso, perché non c'è un appiglio con quel tipo di tetto, non hai un appiglio, se cadi lì da lì si va direttamente riosso. Ma pure nella cabina l'ascensore mio, visto che è in discesa, non te lo ricordi più com'è? Sì, è anche lì. Lì ci metti più le mani se va lì, ti dati la rincorsa, ve lo scivolo. Abbiamo messo 85 metri, 5 metri di tubo sull'antenna e 7 metri, ci abbassa, il palazzo è alto, quindi non è che si devono mettere tutti alti da farla vedere a tutta sassa. Ma l'antenna dal piano di tetto devi guardare, non dal piano della strada, chissà di siete sempre voi. Devi guardare dal piano del tetto. Anziché vai 3 metri di goso, di dromba all'ascensore, cos'è buccio? 1,5 metri di palo. 5 metri di palo, erano 8 metri, ho messo 5 metri, l'altro l'ho lasciato dentro. 5 metri dal tetto o dalla terra? Dal tetto. Dalla tromba dell'ascensore proprio, da lì partono 5 metri di palo. E allora già è alta. Io pensavo 5 metri dalla ghiaia. No, a parte che è sollevata, no, non tocca, non lo tocca, è sollevata da tutto perché. Vabbè, comunque l'antenna va bene, io l'ho provata e va bene lontananza, va bene tutto, non c'è nessun problema. La zona è buona, l'antenna è in alto abbastanza, non è di raggi in campagna, in terra. Ma adesso quella di Antonio devo fare un palo telescopico e la dobbiamo sollevare ancora perché quel palo che c'aveva è troppo basso, non mi piace. Ma telescopico si piega, si dovrebbe mettere due pali di acqua, due pali da 2 metri. Se lo sto costruendo io, sono due pali zingati, mica sono pali di che si telescopici di vendi bricco, ma sono quei pali grossi, da 50 e l'altro dentro, domani ho bici. Quello non c'è bisogno manco di tirare, hai visto quello che c'è sulla Budini di quanti anni c'è quella tecnica? Non si è mai piegata, ha fatto un vento di tutti i tipi, non si è mai pigiata. Già l'ho vista, sì. Se il palo è buono, non ve ne... anche io tirante mai avuto una ginocchia, mai, anche quando avevo la mano, tutti i tubi fuori, no, perché sono tubi da ponteggio, sono quelli zingati, mai messo un tirante, mai. È proprio il vento, il maestrale lo prende tutto di fronte, cioè, se non metti i tiranti qua, se ho fatto una persona, ha detto, il palo deve ballare un po', non vuole tirato, questo e quell'altro, l'ho mollato appena appena e tirato, si è pigiato un palo, ha aiutato a retta a Iscio e invece è pigiato un palo, vabbè, non do più retta a nessuno, li ho rimessi in tira e tirati vanno bene così. Fatto bene, vai Antu. Cosa? No, qua non c'è un'altezza altissima da mettere il tirante, ma al massimo che alziamo quando sarà 4 metri. 3 metri e mezzo, non di più. Ma ti conveniva farlo una volta per tutte, invece ti devono essere molte volte salire e si devono fare la palla. Vabbè, non ci vuole niente. Non so fare, ti vuole più tempo che a farlo. E quindi, ma già va bene così ancora. Andrà bene. Sto uscendo a pochi watt, sto proprio a pochi watt perché c'è Luca, che si dà un casino. Lo so. Devo uscire con pochi vatti in città che già dormi, vatti, sono lì. C'è un po' da fare in città. Ma infatti non conviene. Vado a controllare la che può far collovarsi, ma vedete, si ammagna ancora sotto al vento, cazzo, nella gola, tutto, guarda. Un prurito allucinante. Cioè, non è molta modulazione, avvicinati. Come non ho molta modulazione? Il basso? È un po' basso, sì. Aspetta. Oh, già, ci sei? Ehi, guarda a vedere adesso. E ora va bene. C'era la macchina abbassata. Comunque funzionava bene, a me mi interessava che funzionasse bene. E vedo che sta rispondendo bene. Va bene. Mamma mia, già. Ho preso i gnocchi freschi, ho preso quelli dei quelli fanno a Sassari. Ho capito. E la casa del Tortellino li faceva buco. Quelli. Quelli che ci sono in via Cosa. Giacchidoni. Ah, la casa del Tortellino, quelli via Napoli parli. Ehi, ho capito cosa stai dicendo. Alla sfogliatoia. La sfogliatoia, già sono buone. E beh, lì ci servivano loro, hanno vogliato della pasta. Quella lì. Giacchidoni, su. Via Sieni. Come? Via Sieni. Via Sirieni, trovo, mi sono sbagliato, via Sieni. Ha ragione che è basso. Non voglio dire. Sei stato ragione. Ora, 1, 2, 3, 4. Va bene la radio adesso? Sì. Ma lo dovevo fatti dire. Gloria! Sono quasi cotti, sono, altri 2 minuti. Insomma, ti riserva niente prima di farli. No. Sempre li devi assaggiare, però non è pasta fresca. E quella forse fa meno male. La pasta? No. E le farine fanno male tutte queste cose. Non se ne comprende più nulla. No, ma dico, secondo me fa meno male della pasta di quella secca. Ma non lo so, non ti so dire nulla, però so che la farina delle cose bianche fanno male perché non nascono così ma vengono trattate. Sì, un bel di bucarine, giù nel giro. Adesso meno male che hanno messo queste bio. E hanno bloccato la Coca-Cola e un riso che vendono dai mendici. Ma cosa? E perché delle cose che hanno fatto male a dei bambini a Napoli. Praticamente sono stati ricoverati. Che era il liscio? Tu sei detto uno passo basso? No, io non so tutto nessuno. Me l'hanno sclatta da te? No. Non so che dire. Certo. La Coca-Cola. Cosa? La bevono tutti la Coca-Cola. Non so che la bevono tutti, ma c'è qualche cosa che hanno messo sicuramente, l'hanno inserita in qualche... Io ho visto come facevano con l'acqua, questi mettevano parecchino, tutte queste cose qua. Hanno inserito qualcosa che fa male. Se non ricordo il periodo che mettevano, facevano l'inizio di parecchino nelle buste. Bastardi. Bastardi veramente. Sì, andiamo a mangiare, ci sentiamo. Ciao a tutti, ciao Luca, ci sentiamo, dai, buona serata. Ciao a tutti, ciao.